crediti, non ti ferma neanche un muro, con lo sguardo puoi arrivare più lontano, oltre il passo tuo, il passato non conta più, non torna più, salta dalle cornice e guarda su. Apri gli occhi tuoi, grandi puntali nel cielo, di blu sfamali, fuori c'è l'arcobaleno, e cominciti che non era tuo destino di rinchiuderti dentro un mondo che è buio ormai, e tu lo sai, l'ora d'essere felice non passa mai. Non ti ferma neanche un muro, con sguardo puoi arrivare più lontano, oltre il passo tuo, nulla mai del tutto vano. Donna, affrettati, prima che chiuda il sipario, non illuderti, che si fermi il calendario. Apriti, sonna tu sei.